Il pavone e Giunone da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Grandea, così narra che un pavone dicesse querelandosi a Giunone: m'hai dato un canto ch'è una stonatura, un canto vero orror della natura. L'usignol, un così vile uccellin, invece ha un canto che a sentirlo è un dolce incanto, tanto è flebile e gentile. A lui Giunon, dei gangheri un po' fuori, così rispose: e può nutrir nel seno gelosa invidia per un usignolo una bestia che parla arcobaleno? Tanto ricca di luce e di colori che il sol pavoneggiandosi dispiega una coda si splendida, che meno d'un orefice è bella la bottega? Non c'è bestia allo stringer del conto che ti possa in beltà stare a confronto. Fece gli dèi le bestie di maniera che ognuna avesse qualche qualità, e legger il falcone, l'aquila fiera, a chi gran corpo, a chi valor si dà. Se l'uno o l'altra gracchia, il corvo serve pel cattivo augurio e pel tempo cattivo la cornacchia. Tu fa che a lamentarti più non t'oda o ti strappo le penne della coda. Fine della favola Il pavone e Giunone. Questa registrazione è di dominio pubblico.